Runtime Radio presenta Michela De Paola in Paucracy, animali rivoluzionari. Ciao, io sono Michela De Paola e questa è Paucracy, animali rivoluzionari. Prima di iniziare con questo episodio, vi ricordo che Paucracy fa parte di un progetto più ampio chiamato Runtime Radio, la radio geek. Se volete scoprire quello che facciamo, basta andare su www.runtimeradio.it o su spreaker.com/user/runtime. Se volete contribuire al grande sforzo produttivo e creativo del nostro network, basta andare su runtimeradio.it/anch'io. Per quanto riguarda questo programma, ci trovate su spreaker.com/show/paucracy e su tutti gli aggregatori podcast principali, da iTunes a Spotify. Per ora, per contattarci, potete scriverci a paucracypodcast@gmail.com. Ma veniamo all'episodio. Molti di voi quest'anno saranno pronti a partire per le vacanze. Tra i fortunati che andranno a Palermo e dintorni, consiglio di fare attenzione. Potreste essere ancora più fortunati e vi potrebbe capitare di incontrare dei cani super tosti che la città la vivono a pieno. Mi raccomando, voi ascoltatori di Paucracy, dateci una soddisfazione. Non date loro da mangiare, non li caricate in macchina, non chiamateci gridando aiuto, aiuto, devo salvare questo cane, c'è posto in canile? Fermatevi ad osservarli, magari senza invadere i loro spazi. Se vi chiedono una carezza potete concedergliela, anche due coccole. Ma poi ricordatevi di quello che vi stiamo per raccontare. Questi cani possono sempre contare sul supporto della bravissima Giorgia Matesi, persona altamente qualificata che si occupa di monitorarli e tutelarli affinché possano condividere gli spazi del quartiere con gli umani che grazie a lei hanno imparato a rispettarli, amarli e supportarli. Ascoltiamo come si compie la magia di fare rete. Bentornati amici di Paucracy, abbiamo qui con noi Giorgia Matesi, docente di arte e sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, educatrice cinofila e tecnico di Mobility Dog FICSS, ex operatrice del canile municipale di Palermo, assistente tecnico veterinario, consulente riabilitativo, istruttore cinofilo con approccio cognitivo zooantropologico. Nello specifico di questa intervista, Giorgia, ti abbiamo invitato perché ti occupi di gestire e monitorare i cani che vivono liberi sul territorio di Palermo. Ben arrivata. Grazie, ciao a tutti. Allora Giorgia, io parto subito, vado subito al dunque. Prima di tutto ti volevo chiedere qualcosa riguardo la realtà in generale della tua terra, della Sicilia, riguardo ai cani che vivono liberi sul territorio. Come viene gestita anche al di fuori di Palermo questa situazione e quali sono le leggi o le norme a cui fare riferimento per permettere ai cani di vivere liberi? La realtà siciliana si presenta molto diversa in tutte le varie aree, ecco, del territorio, perché dobbiamo considerare che sebbene la legge regionale 15/2000 preveda la remissione in territorio, quindi i cani vengono rimessi in libertà anche quando le strutture offrono sufficiente capacità recettiva, se sterilizzate e iscritte all'anagrafe canina. Quindi la remissione in territorio è assolutamente prevista dalla legge, nella legge regionale specifico, però in ogni comune cambia la gestione, ogni comune fa delle scelte diverse, ci sono dei comuni dove funziona la sterilizzazione, la remissione, ci sono dei comuni che preferiscono convenzionare, cioè preferiscono mettere in atto delle convenzioni con delle strutture private, delle cliniche private. Ci sono dei comuni che supportano altri comuni un po' più piccoli, insomma, e quindi cambia da zona in zona, e bisogna quindi prima informarsi su come venga gestito in quello specifico territorio la libertà dei cani, so che di questo insomma parliamo, la remissione in territorio, e quindi prima informarsi bene e poi capire cosa fare. Ok. Senti, chi sono i cani di quartiere di cui ti occupi? I cani di quartiere sono fondamentalmente dei cani che ci sono dei cani che vengono dall'abbandono, che hanno un precedente di abbandono. Altri cani nascono e crescono in spazi che non sono quelli delle campagne, dove vediamo è più facile vedere dei cani semiselvatici o dei cani che non stanno a contatto diretto con l'uomo, ma soltanto si avvicinano alle risorse, agli scarti, diciamo, umani, ecco, e quindi entrano in contatto con l'uomo soltanto indirettamente. Nel caso dei cani di quartiere, invece, solitamente si tratta di cani o molto socievoli o cani comunque ben socializzati, comunque integrati in un contesto sociale dove ci sono altri animali, umani, felini e altri. I cani di quartiere quindi sono dei cani che fanno parte di territori ben precisi, che creano dei legami, legami con, appunto, con gli altri, con altri cani o con altri animali. E questo è un punto, secondo me, molto importante, perché è importante sottolineare quanto per loro sia fondamentale creare dei legami e vivere in base a delle delle abitudini che si vengono a creare nel tempo, che si vengono proprio a strutturare, ed è anche molto bello osservare nel tempo come cambiano anche in modo positivo certe realtà, certe dinamiche sociali in alcuni contesti dove ci sono i cani di quartiere. Ok, come nasce il tuo interesse per questi cani e perché hai scelto di dedicare gran parte della tua vita, anche lavorativa, insomma, e non solo, perché hai scelto di occuparti di loro? In realtà è stato un po' un caso, nel senso che io ho sempre osservato, da persona molto curiosa, interessata al mondo sociale e comunicativo dei cani, ho da sempre osservato gli animali liberi. E secondo me la curiosità a farsi domande è anche una cosa molto importante, perché molto spesso si tende ad agire senza prima avere curiosità o comunque senza prima farsi delle domande. È stato un caso perché 10 anni fa, mentre lavoravo in canile, una signora mise un appello in cui cercava aiuto per dare da mangiare a dei cani, appunto dei cani in un quartiere, perché lei stava molto male, una signora anziana, stava andando in ospedale, infatti lì a poco è morta. Io dissi: andiamo a vedere di che si tratta, perché comunque chiaramente quando si crea una continuità e c'è la signora che dà da mangiare i cani sempre la stessa, sempre stessa ora, insomma, si creano chiaramente delle routine, delle abitudini. Questi cani a un certo punto si sono visti perdere, diciamo, il loro punto di riferimento da questo punto di vista. E allora sono andata a conoscere i cani del villaggio, diciamo così, un gruppo di cani che erano prima 4 e adesso sono 3, perché una poi è morta di malattia. Questi cani del villaggio inizialmente non erano ben voluti dalla popolazione, perché consideriamo che si tratta di un contesto dove abitano tantissime persone, ci sono palazzi con molte famiglie, ci sono bar, ci sono, c'è il barbiere, ci sono negozi vari, quindi c'è molto movimento di scuole vicine, molto movimento di gente. All'inizio non erano ben voluti anche perché sono dei cani di grande taglia. Ad un certo punto, quindi, una volta che la signora purtroppo insomma, non è tornata più, appunto è morta, abbiamo cominciato a creare rete con alcune persone per alternarci e dare da mangiare a questi cani e monitorare la situazione sociale, dal punto di vista sociale. Ad un certo punto, e secondo me quello è stato il punto determinante che veramente ha cambiato tutta la prospettiva è cambiato e veramente ha dato un orientamento al mio impegno. È il momento in cui hanno minacciato questi cani di avvelenamento, altro, di chiamare la municipale per farli accalappiare e portare in canile. E io, a differenza di quello che si fa solitamente, che alla prima minaccia vengono presi i cani e rinchiusi da qualche parte, dissi no alle minacce, dissi guardate, a me non interessa nulla di queste minacce, meglio morire qui, a casa loro, piuttosto che essere rinchiusi per tutta la vita. Anche perché, appunto, come dicevo, cani di grande taglia, meticci, con indice di adottabilità non molto alto. Abbiamo ovviamente le strutture strapiene di cani che cercano famiglia. Ovviamente ci sono tantissimi cani a Palermo. Chiaramente io parlo di Palermo nello specifico perché è la mia città e dove opero. Però intervengo anche in paesi limitrofi, ho supporto delle persone anche in paesi limitrofi e ogni volta che posso proprio aiuto cerco di indirizzare le persone per risolvere insomma, dei problemi. E in questo caso, rifiutata la minaccia, dissi ok, questi cani non vanno spostati, stanno qui, loro sono socievoli. Non danno reali problemi a nessuno, quindi chi ha paura così per problemi suoi, diciamo, non, chiaramente non mi, cioè per me non è sufficiente questo per allontanare un animale dalla sua casa, perché per loro quello è casa, no? Ci siamo organizzati e abbiamo scelto di lasciarli lì. Nel momento in cui le persone nel tempo hanno visto la nostra cura nei loro confronti, quindi mettevamo gli antiparassitari, mi vedevano spazzolare il cane, una volta l'anno portavo entrolettatura, il monitoraggio della salute, antinfiammatori se è il caso o altro, quindi è cominciato questo monitoraggio. Quando le persone hanno visto questa attenzione nei confronti dei cani, si sono anche un po' rassicurati, no? E anche i bambini, devo dire, bambini che spesso giocano fuori, stanno insieme ai cani, hanno condiviso tanti momenti, condividono tanti momenti insieme ai cani. E parliamo tra l'altro di quartieri non molto ricchi, quartieri dove diciamo, c'è un'utenza, insomma, c'è un po' di ignoranza, no? Però c'è anche molta condivisione e ognuno chiaramente vive la relazione col cane a proprio modo. Ed è bello perché ogni persona alla fine ha tante storie da raccontare, tante esperienze da raccontare, tanti momenti condivisi con questi cani. Quindi è cresciuto l'interesse e la curiosità nei loro confronti, e allo stesso tempo vengono visti sempre più come facenti parte proprio come padroni di casa in qualche modo, come facenti parte di quei territori. Consideriamo anche che alcuni randagi e alcuni cani di quartiere allontanano i ladri quando arriva di notte qualcuno malintenzionato, loro sanno esattamente, perché lo sanno ovviamente chi vive lì, chi è ospite, chi è sereno, chi invece ha cattive intenzioni, e loro individuano facilmente i ladri e hanno fatto scappare moltissimi, moltissimi ladri. Quindi Quindi, insomma, è anche bello vedere anche i bambini come crescono con loro, vedere questa condivisione in modo molto genuino. Io tra l'altro ho insegnato in una scuola vicino del quartiere, proprio dove monitoro questi cani, che adesso comunque sono una ventina, nel senso ovviamente tutti gruppi diversi, in territori diversi. Però monitoro una ventina di cani, non do più da mangiare a loro perché considerate aumentando l'interesse aumenta anche il numero di persone che danno da mangiare ai cani. Quello invece è Certo. la parte problematica perché loro mangiano veramente tanto, mangiano molto più di quello che dovrebbero mangiare e quindi adesso dopo 10 anni che li seguo. Cioè attualmente io monitoro la parte della salute, tutto quello che riguarda la parte della salute e la parte sociale. E tra l'altro è sempre più complicata perché molti sono adesso anziani, no? Certo. E quindi diciamo, sono anche situazioni molto, molto delicate. E poi però il cibo, anzi mi ritrovo a buttare del cibo perché purtroppo quando la gente lascia lì un sacco di pane, cose prese dal bar e altro, devo per forza buttarlo perché davvero non si può, cioè, veramente troppo. Questo quindi, diciamo, questo è stato più o meno il modo in cui ho iniziato e quello che faccio, diciamo, in sintesi. Ok, beh, mi sembra di capire insomma che sono cani veramente, diciamo così, indipendenti, ma anche molto con dei bei caratteri, con delle belle personalità. Ci vuoi raccontare qualche storia in particolare di qualcuno di loro? Sì, allora, sì, storie da raccontare ce ne sarebbero veramente tante, ma potrei raccontare la storia di Neve, che è un pastore maremmano abruzzese che vive proprio con gli altri cani del villaggio, che sono due gemelli mix molossi. Neve un giorno venne preso da un signore col suo bambino, perché il suo bambino di 8 anni aveva deciso, l'aveva indicato, aveva chiesto al papà di catturarlo per portarlo a casa. quindi un giorno, noi increduli, non abbiamo trovato neve nel suo territorio e insomma, puoi immaginare, abbiamo cominciato a cercarlo ovunque, abbiamo fatto girare le sue foto, fino a quando, un paio di giorni dopo, ci segnalano il ritrovamento di un cane davanti a una scuola elementare. Io non credevo potesse essere lui perché era un'altra zona, cioè lui con le sue zampe sicuramente non sarebbe andato lì. Oltretutto parliamo di un gruppo sociale di cani molto legati tra loro, cioè si vogliono veramente bene. In pratica il cane venne catturato da questo signore con una corda, portato a casa, ma Neve è riuscito a scappare dal giardino, diciamo, di questa casa e vagando voleva tornare ovviamente a casa sua e si è fermato stanchissimo davanti a una scuola, appunto questa scuola elementare. L'incontro poi con Neve è stato emozionante perché una volta me l'hanno segnalato, io sono andata lì, sinceramente non credevo potesse essere lui. Invece l'ho chiamato a distanza e lui è venuto verso di me, ha alzato la testa, mi ha guardato, ma è stato molto commovente, sinceramente. E l'ho riportato a casa sua, cioè dai suoi cani. Ecco, questo ci fa anche capire, dai suoi compagni, ecco. Questo ci fa capire quanto sia importante la questione dei legami familiari, dei legami sociali. E il fatto che non è che portando a casa un cane automaticamente lo si renda felice. Lui ha fatto di tutto per scappare da questo posto, quella non era casa sua, cioè lui non interessava finire in divano o là con la famiglia. Lui aveva la sua famiglia, lui ha la sua famiglia anche oggi.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ E quindi secondo me questo ci fa anche un po' riflettere. A volte capita che succedano delle cose, si intervenga sulle loro vite senza tenerli in considerazione. Quindi questo è anche un po' un controsenso, come nel caso di Yura, un cane anziano di 16 anni che aveva una famiglia, poi un cane proprio uno spirito libero che entrava, usciva, faceva i suoi giri, poi ritornava, ha creato legame, amicizia. Quando entrava in casa abbaiava tutto il tempo perché voleva uscire, voleva stare in giro, a lei piaceva così, è stata una vita così. Un bel giorno un gruppo di persone che dicono di essere insomma animalisti hanno deciso improvvisamente che questo cane dovesse essere tolto da lì e portato in staffetta al nord e fatto adottare, sai, un'adozione del cuore, cose del genere. Ma io mi chiedo intanto, un cane che ha questa storia, che ha questo vissuto, che ha 16 anni e che neanche, cioè che rischia neanche di non reggere un viaggio così lungo, ma poi perché? Per così difficile, anche emotivamente complicato, non solo fisicamente, emotivamente complicato, no, per loro. Assolutamente. Io quando mi segnalarono questo cane, perché purtroppo girano molte menzogne sui cani, infatti dico attenzione quando leggiamo degli appelli, perché le storie non sono esattamente spesso come le raccontano. Mi capita spesso di leggere delle storie su cani che io conosco perfettamente e mi chiedo perché raccontare, diciamo, cose non vere, ecco, perché l'obiettivo è poi quello di appunto rinchiuderli, toglierli dalla strada, perché c'è questa idea che la strada sia il male, ma in realtà se guardiamo la qualità di vita di questo cane, io cosa ho fatto? Quando hanno segnalato questo cane, hanno segnalato come cane che non poteva alzarsi da terra, quindi si sono inventati che questo cane non camminasse più. Io invece sono andata a guardarla e ho detto, vabbè, andiamo a vedere, davvero non cammini? Lei si è alzata, ha fatto le sue cose, ha fatto i suoi giri, semplicemente un cane anziano, ma camminava perfettamente. Allora io ho detto, guardate, sto monitorando la situazione, le ho messo antiparassitario, ho portato il veterinario lì proprio per impattare il meno possibile. Cioè io penso che si debba avere un grande rispetto, se è vero che il nostro interesse, il nostro operato, quello di aiutare, dobbiamo aiutare chi ha bisogno, chi ha veramente bisogno, e considerando sempre le situazioni. Se ho davanti un cane di 15-16 anni, chiaramente non lo prendo e lo sposto così come se nulla fosse. Ho chiamato il veterinario, l'ho portato lì, ho fatto fare il prelievo, ho fatto fare dei controlli e altro. Abbiamo valutato la situazione, in realtà il cane non aveva neanche malattie da zecca, niente, cioè comunque sicuramente aveva dei tumori mammari, delle forme neoplastiche, però ci può stare ovviamente a quell'età, si può supportare chiaramente per il dolore e tutto quanto. Fatto sta che nonostante il mio monitoraggio è stata portata in un'altra strada in modo tale che venisse, cioè che si vedesse che fosse un po' smarrita, no? Perché chiaramente tu vedi un cane fuori dal suo contesto, non sa dove andare, no? Certo. E quindi l'hanno fatta accalappiare e hanno chiamato proprio il canile per farla entrare in canile. Chiaramente un cane anziano entra in canile, il canile non è che facilmente lo rimette in territorio, anche perché è stata operata, le hanno tolto questi tumori mammari, eccetera. E ovviamente quando intervieni chirurgicamente, togliendo dei tumori a quell'età, è chiaro che è molto facile che si formino poi, diciamo, delle metastasi o altro, che si acceleri in realtà il processo che porta poi alla morte. Quindi in realtà, quindi sofferenza per l'intervento, sofferenza quindi nel post-operatorio, sofferenza perché il cane è stato chiuso in canile, Bene, è stato, diciamo, alla fine è stato fatto di tutto per. Sempre nel nome dei cani non devono stare per strada, è stato fatto di tutto per farla soffrire e poi in un mese e mezzo dopo l'intervento non ce l'ha fatta più. Io decisi di portarmela a casa perché le ho promesso che non l'avrei fatta morire in canile, però non è stato bello, non è stato facile e ovviamente fa anche molta rabbia, no? Certo. Pensare che poi in un mese e mezzo l'è morta, io penso che sarebbe vissuta ancora un po' se non l'avessimo toccata, o comunque sarebbe morta a casa sua, cioè quella che per lei era casa, lei sta perfettamente a suo agio nel suo territorio, e aveva i suoi amici, i suoi affetti, le persone che le portavano a mangiare, persone che chiedevano di lei. Quindi, diciamo, tutto questo non viene considerato perché purtroppo spesso si ragiona come, insomma, come se fossero dei dogmi. Il cane per strada no. Ok, ma che significa cane per strada no? Cioè, quale strada, quale contesto, quale situazione, come sta il cane? Chi è il cane? Con cui, cioè, qual è il cane di cui stiamo parlando? Qual è la sua storia? Qual è la sua vita? Nel momento in cui non ci poniamo in una condizione di ascolto dell'altro e agiamo soltanto nel nome di idee, diciamo, astratte, purtroppo si fanno molti danni poi, cioè si fanno molti danni sulle loro vite. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Poi noi di Ipocrisi abbiamo deciso di sposare in pieno questo punto di vista, quindi mi trovi prontissima ad accogliere, insomma, questo ideale. Purtroppo il volontariato andrebbe formato. Diciamo molto di più, andrebbe reso molto più consapevole e poi sì, purtroppo queste tratte dal sud verso il nord stanno diventando veramente una piaga. Assolutamente. Assolutamente sì, perché comunque diciamo, non vengono considerate molte, molte cose, e dico, consideriamo pure che molte persone non vogliono neanche formarsi, informarsi e prendono iniziative. Poi c'è da dire pure che le istituzioni spesso dormono sonni tranquilli perché delegano alle associazioni come se cioè, sia il cittadino che le istituzioni pensano che l'associazione protezionistica abbia tutta la scienza infusa e possa fare soltanto le scelte giuste per tutti. In realtà non funziona così. Perché il privato cittadino dice: vabbè, sì, ma se l'ha detto quello che fa volontariato da tanti anni, si vede che la cosa è giusta, ma in realtà non è così. Non è detto. Non è detto. Le istituzioni magari sanno che tanto poi se ne occupano, cioè spesso si deresponsabilizzano, anche alcuni comuni si deresponsabilizzano perché tanto c'è l'associazione che si occupa di questo e di quell'altro, però poi ecco, in realtà quello che si dovrebbe fare è collaborare, creare rete. E le cose più belle che sono riuscita a fare in questi anni, sono frutto della collaborazione, non sono mai merito di una persona o due, ma proprio merito della collaborazione tra istituzioni diverse, perché io nel momento in cui intervengo per aiutare un cane, quindi comunico e dialogo con il comune, dialogo con l'ASP veterinaria, dialogo con volontari, residenti, persone che conoscono il cane, che lo vedono ogni giorno, persone che danno da mangiare, persone che mi sanno dare delle informazioni e mi segnalano eventualmente delle cose che non vanno. Quindi il monitoraggio è lavoro sicuramente completo, lavoro volontariato, nel senso che è gratis, nel senso Certo. che, o meglio, cioè io spendo tanti soldi più che altro, perché poi molto spesso se ci sono magari delle visite specialistiche da fare o delle cose da comprare o dei farmaci particolari, non è una cosa a carico, cioè, dell'ASP lo compro io e basta, oppure al massimo se c'è qualcuno che vuole collaborare tra i residenti, perché può capitare, una volta è capitata una lussazione di una zampa, i residenti molto carini hanno raccolto 10 euro l'uno per le spese veterinarie, perché il cane ha dovuto, insomma, non subire un intervento per fortuna, però è stato ricoverato, è avuto, insomma, è stato curato, e quindi la gente ha collaborato. Questo è stato comunque molto bello, quindi senza creare chissà quali raccolte fondi, alcune persone, solo per l'affetto che hanno, nel nome dell'affetto che hanno nei confronti di quel cane, sono disponibili anche a contribuire, no? Se si crea, se c'è dialogo, se c'è confronto, allora veramente si possono creare buone collaborazioni e si possono fare gli interessi dei cani e di tutti, diciamo. Sì, infatti era proprio quello che ti volevo chiedere, come funziona il sostegno della popolazione e come riesci a coinvolgere le persone nella gestione e nella corretta gestione, ma a parte l'alimentazione che già hai spiegato, insomma, che diventa un po' problematica, però diciamo che come riesci a fare anche corretta informazione a questo punto nel tuo piccolo, per quanto riguarda le persone che comunque in qualche modo ti sostengono in quello che fai, al di là delle istituzioni. Dunque, una cosa importante è appunto quella di non cioè essere sempre molto umili e mettersi sempre nei panni degli altri. Perché lo dico? Perché quello che mi capita è che magari il residente X che dà da mangiare al cane, che vuole bene al cane, mi dice: no, io con quelli non ci parlo, con quella gente ignorante, no, ma quelli così, ma quelli così, non, molte persone non viene spiegato nulla. Consideriamo che ci sono persone che non sanno neanche cosa avviene in canile, come funziona il canile. Ci sono persone che pensano che i cani vengono uccisi ancora in canile, quindi magari preferiscono vederli lì soffrire in mezzo alla strada piuttosto che chiedere aiuto, perché o piuttosto che chiamare il canile, perché pensano che appunto il cane muoia lì. Però nel momento in cui si crea, si spiegano le cose, e mi è capitato di persone appunto che credevano che in canile il cane morisse, ho spiegato alle persone: allora funziona così, adesso non vi preoccupate, il cane entra, viene sterilizzato, rimesso in territorio, mi occuperò personalmente della rimessione in territorio del cane, vi farò vedere, vi aggiornerò sul suo stato di salute, potete andare voi stessi in canile a vederlo, e che ne so, ecco, spiegare le cose. Quindi informare le persone è fondamentale, a prescindere dal grado di istruzione, a prescindere dalle simpatie, le antipatie, a prescindere da tutto. Parlare con le persone è importante. Quando mi avvicino ai cani, ci sono spesso persone incuriosite che mi parlano, mi chiedono delle cose, mi fanno domande, oppure mi raccontano delle loro cose, e questo mi dà la possibilità di spiegare loro alcune dinamiche, oppure quindi spiegare come funzioni, e dire anche loro perché, per esempio, dare wurstel ogni giorno è un problema, no? Perché non facciamo la loro felicità nel momento in cui li alimentiamo in un certo modo, e quindi quali sono le conseguenze di alimentarli dando insaccati no, ogni giorno. Ecco. Quindi cercare di spiegare le cose è fondamentale. A volte rassicurarli, dire: guarda, non ti preoccupare che me ne occupo io di questa cosa, tu occupati di questa. E poi un'altra cosa, dare dei compiti. Cioè, le persone vogliono sentirsi coinvolte, perché non possiamo né dire che voi non fate niente, non siete nessuno, e neanche responsabilizzarli più di tanto, perché purtroppo, almeno per quello che riguarda le terapie, non, su questo è un tasto dolente, diciamo, non è facile che ci sia collaborazione da parte delle persone per quello che riguarda le terapie. Diciamo, sono poche le persone affidabili, realmente affidabili. Però quindi se già magari si evitano alcune cose, si favoriscono altre, oppure si dica meglio mettere da mangiare qui piuttosto che lì, per evitare problemi, oppure togliamo il cibo, non lasciamolo stagnare, stare lì perché poi vengono i piccioni e vengono i topi e ci sono problemi, i piattini di plastica, teniamo pulito. Vuoi fare qualcosa? Tieni pulito, non c'è bisogno di comprare del cibo perché molte persone magari non hanno neanche tanti soldi. Dico, ok, una cosa bellissima che puoi fare, pulire, lasciamo tutto pulito in modo tale che vengano visti in modo sempre più, diciamo, senza tante resistenze, ecco, senza tanta diffidenza. Giusto. Quindi questo è importante, ecco. Quindi dialogare con le persone, fare rete, cercare di responsabilizzare su delle cose o comunque coinvolgere, spiegare le cose, secondo me è fondamentale. Il dialogo è la chiave di tutto. Esatto, mi sembra assolutamente corretto tutto quello che ci hai detto fino adesso. Ascolta Giorgia, io mi immagino che tra i tanti cani che vivono e vivono benissimo in strada, magari ci sono cani che in realtà, come può succedere, che ci sono cani che non sono adatti a vivere nelle case, in casa. Magari ci sono casi che non possono vivere in strada. E non so se te mai, è una mia curiosità, è un mio, diciamo, un punto di domanda. È possibile, secondo te, fare un percorso di adozione consapevole passando direttamente dalla strada alla famiglia senza passare per il canile? Ovviamente è utopico pensare che non possa esistere più il canile, però può succedere questo. Sì, questo succede assolutamente. Non tutti i cani possono vivere per strada. Ci sono dei cani che trovano delle forme di adattamento, scelgono dei luoghi, scelgono i posti, stanno lì, stanno bene, non hanno problemi, eccetera. Altri cani invece poi hanno dei problemi o arrecano problemi poi agli altri. Nel caso di Lilli, per esempio, un cane giovane che inizialmente mostrava molta diffidenza nei confronti delle persone e stava a grande distanza dalla gente, poi invece ha cominciato ad aggregarsi ad un gruppo di tre cani insieme al suo compagno, quindi è diventato un gruppo di cinque cani, scusa, un gruppo di cinque cani. E che è successo? Lilli in realtà, stanziando di più in quella zona in seguito alla sterilizzazione, ha cominciato ad allontanare le persone. A volte si faceva un po' brutta, cioè l'ho vista andare addosso a delle persone, l'ho vista andare addosso dà fastidio l'abbaio del No, cane. non c'è problema, ci mancherebbe. Il mio suo inquilino, che non so perché stia abbaiando in questo momento. Diciamo che è un sottofondo a cui ci stiamo abituando anche nelle altre interviste, quindi va benissimo, non c'è. Può succedere che abbaia anche il mio, la mia, anche se sta un po' sottoterra, quindi Allora non le dico nulla. non c'è problema. Quindi dicevo, Lilli ad un certo punto, una volta ha fatto parente caderno una signora che aveva sacchetti della spesa, l'ho vista un po' brutta nei confronti dei bambini, e ho detto: Ok, siccome tra l'altro è stata segnalata, ma le persone ovviamente hanno segnalato tutto il gruppo come di cani aggressivi, ovviamente era soltanto lei che insomma aveva qualche problema con le persone, allora sono intervenuto, ho parlato con la municipale, ho fatto in modo che non venisse accalappiato tutto il gruppo e che venisse preso soltanto, cioè no, nel senso ho detto che mi sarei occupata io dell'adozione di questo cane. Perché era soltanto lei, diciamo, tra virgolette, il problema in quel contesto. Per fortuna dei miei clienti hanno scelto di adottarla, e quindi lei è andata a vivere tra l'altro in Sicilia, in un paese, in una villa insieme ad un altro cane, un mix pitbull, e cominciato quindi il percorso proprio che ha portato poi all'adozione di Lilli. E questo è stato un percorso molto bello, è stata una bellissima esperienza, e quindi questo ha permesso a lei di trovare una sua dimensione senza dare problemi a nessuno, e al gruppo di andare avanti, per quanto lei avesse un legame molto forte con un altro cane, e questa cosa ovviamente mi è dispiaciuto, cioè mi è dispiaciuto doverli separare, però ho dovuto considerare la situazione a 360 gradi, ovviamente i cani di quartiere non possono essere dei cani che vanno ad aggredire la gente, è chiaro, quindi la cosa importante è che si possa stare bene insieme, poi simpatie e antipatie possono anche esserci, persone si spaventano, però dico, non dobbiamo creare dei problemi alle persone, non dobbiamo dire nel nome della libertà, al contrario, di dire che va tutto bene. Quindi questo è un altro punto importante: non esiste la libertà come valore assoluto, come non esiste il cane in casa come il massimo della felicità, perché sono due estremi, diciamo, che non hanno alcun senso, vanno sempre contestualizzati, no? E nel caso di Lilli è stato fatto questo percorso adottivo e abbiamo fatto degli incontri al campo da me con la famiglia, con l'altro cane. E piano piano si è creato un legame molto bello e si è creato quindi un nuovo equilibrio anche tra gli altri cani che erano sul territorio. Quindi questo è stato un bel caso. Nel caso di quando raccontavo poco fa di Yura, nel cane anziano di 16 anni, in realtà Yura viveva insieme a una cagna molto giovane che non aveva neanche un anno, che l'aveva scelta come mamma, zia, nonna, non so, comunque era molto legata. E nel momento in cui Yura è stata portata in canile, questa piccola non poteva stare da sola in quel contesto, perché comunque non era in una condizione e in un posto in cui potesse stare da sola. E a quel punto, nel suo caso, ho scelto pure, a parte il fatto che appunto c'erano altre persone che avevano puntato gli occhi su di lei, quindi non sapevo che fine potessero far fare, allora ho scelto di farla adottare. E anche lei è stata un po' con noi, con me, con un'altra persona, una signora che l'ha tenuta, diciamo, in stallo qui a Palermo. Dopodiché è stata per un periodo al Ride Dog a Bologna, e il caso ha voluto che venisse adottata da una mia amica, nonché ex collega operatrice del canile, che vive in quella zona, diciamo, tra Bologna e Ferrara. Lei quindi ha adottato questa piccola. Quindi anche questa è una bella storia, lieto fine, nel senso che è finita bene, abbiamo seguito il percorso adottivo. Quindi, diciamo, a volte ci si impegna, però bisogna scegliere quando è il caso di cercare adozione. No? E quando cercare adozione? Quando fondamentalmente ci sono dei problemi, perché altrimenti dico ci sono tanti cani chiusi in canile, andiamo ad adottare cani che sono chiusi in canile, piuttosto che quelli liberi. Però dico, ci sono delle situazioni in cui o sono molto anziani e hanno veramente dei problemi, o ci sono dei problemi in quel contesto sociale, e magari non possono adattarsi in certi contesti, e quindi in quel caso seguire dei percorsi adottivi, ovviamente consapevoli, preparando il cane, perché poi ovviamente cioè ogni volta che mi occupo di monitoraggio, ovviamente metto lì tutto quelle che sono le mie competenze acquisite, le mie conoscenze, quindi è chiaro quello che so come assistente tecnico veterinario, quello che so come ex operatrice di canile, quello che so come istruttrice cinofila, cioè metto tutto quello che so per aiutare il cane a stare bene e trovare facilmente un equilibrio nella nuova famiglia senza dare troppi problemi, ecco. Non è facile perché comunque ci sono dei momenti un po' più complicati quando, soprattutto quando sono anziani e non stanno bene. O quando per esempio ultimamente c'è un caso di un cane che ha una massa tumorale di una zampa, probabilmente andrebbe amputata. Io so che potrebbe vivere con tre zampe per strada senza problemi, però è un cane anche pesante, quindi dobbiamo considerare anche questo. Insomma, a volte non è facile fare delle valutazioni, ma bisogna sempre confrontarsi con i veterinari, confrontarsi anche con le altre persone, e capire quale sia la scelta migliore per aiutarli. Ho capito. È molto, è anche molto complesso anche entrare in questi... in queste decisioni, però ci vorrebbero più Giorgio in molti quartieri, non solo a Palermo. Cioè, questo lo dico anch'io, veramente mantenendo sempre proprio i piedi per terra, però davvero spesso si pensa magari a dare da mangiare punto e basta, e poi non c'è interesse nei confronti di quello che può succedere dopo. Ad esempio, ci sono persone che danno da mangiare un cane, poi se questo cane viene accavappiato, portato in canile, portato via, non si interessano più. Cioè, una volta che è lontano dagli occhi, diventa anche lontano dal cuore. Ci sono altre persone invece che fanno anche grandi battaglie per far tornare il cane, per esempio il cane di Mary in piazza di un paese, abbiamo fatto grandi battaglie per farlo tornare in piazza. Non è stato facile perché anche lì lui era destinato ad andare a Milano in un box in ecco. Un cane privato, tra l'altro di 9 anni, 10 anni, forse di più, nero, tutto nero. Sì, facilmente adottabile, insomma, un cane che si adotta subito proprio. Quando è praticamente il re della piazza, un sacco di amici, e abbiamo a un certo punto mandato un sacco di mail, abbiamo parlato con l'assessore, con il sindaco, con tutti, abbiamo smosso il mondo per farlo tornare in quella che per noi è stata casa. E la remissione in territorio è stata molto emozionante, è stata una battaglia vinta, ma vinta soprattutto grazie alla collaborazione con le persone che l'hanno voluto fortemente nel suo territorio. Ed è bello quando riesci a collaborare con le persone, aiutare, perché poi magari, cioè, quello è un paese che io non conosco bene, no? È un paese che cioè, io non conoscevo neanche questo cane, ma nel momento in cui mi segnalano questa situazione, nel momento in cui mi dicono guarda c'è questo, ma io vorrei che tornassi in piazza, ma questo è possibile o mi devo arrendere? E allora, se c'è questa volontà forte, insomma, siamo riusciti a smuovere il mondo anche contro associazioni che erano assolutamente decise, come hanno fatto sempre, come continuano a fare purtroppo, prendere i cani, metterli in box e poi diciamo fare appelli basandosi sulla trappa lacrime. Trappa lacrime e poi per farli partire. Altro, però dico, se stanno bene, perché? Dico, ci sono tanti cani che soffrono, perché poi succede questo invece, che ci sono dei cani con delle fratture scomposte che devono subire degli interventi importanti e che hanno quindi bisogno, con la B maiuscola, di aiuto aiuto anche economico perché gli interventi ortopedici costano tantissimo, Costosissimi, certo. sono costosissimi. Quindi, nel momento in cui mi ritrovo davanti a una situazione di questo tipo, servono tanti soldi che né io né quelle povere disgraziate che magari trovano il cane. Abbiamo, allora lì veramente serve mettere, raccogliere dei soldi, proprio aiutare. Ecco. Il problema nasce nel momento in cui non si aiuta chi ha bisogno, ma nel nome di idee astratte, si strappano proprio delle vite dal proprio contesto, dai propri legami, dal proprio territorio. Senza motivo proprio per poi essere spediti in altri canili, eccetera, quindi ricominciare l'iter poi per l'adozione. Però dico, ecco, quello che manca secondo me è proprio la curiosità e allo stesso tempo la capacità di ascolto. Ecco, questa secondo me è una cosa che manca. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Spero di aver fatto un piccolo, diciamo così, di aver messo un piccolo punto. Io poi l'ho conosciuto in un'altra, diciamo, in un'altra serata grazie al progetto Nash e là ci abbiamo messo già un altro punto grazie a loro. Però bisogna arrivare un po' a tutti, ma bisogna capire e iniziare ad ascoltare, che forse è la cosa fondamentale. Una domanda che ti volevo fare, che in realtà non mi è venuta in mente adesso, ma è più una curiosità, perché poi ci dimentichiamo tutti che negli ultimi 2 anni abbiamo vissuto un lockdown, abbiamo vissuto praticamente città deserte e quant'altro. Come hanno vissuto i cani durante il lockdown? I Ma cani che vivono con noi. loro bene, loro bene. Una All'inizio Pasqua. abbiamo notato che abbaiavano molto di più ai passanti perché improvvisamente non si vedeva nessuno in giro, quindi quando passava qualcuno, passava una macchina, loro abbaiavano di più, segnalavano più, diciamo, questi passanti. Però bene, cioè, alla fine sì, si sono fatti anche loro tante domande. Devo dire che alcuni proprio si sono sentiti un po' destabilizzati da questa cosa. È aumentata l'attenzione da parte di persone che ovviamente i residenti che si affacciavano e li vedevano, quindi non andando al lavoro, magari li guardavano di più e si facevano più i fatti loro. E quindi è cambiato in tal senso. Però poi una volta che le cose, insomma, che la vita e quindi anche le attività, dei negozi e altro hanno ripreso, normalmente, diciamo, tutto è ritornato un po' come prima, ecco. Sì. No, ok, era più una curiosità mia, insomma, giusto per capire. Li vedevi più per strada, li vedevi più perché loro chiaramente si spostano e si muovono in base al movimento anche di macchine, di gente, Certo. e quindi li vedevi più per strada. Adesso stanno più sul marciapiede, no? Per esempio. Ottimo. Allora, grazie Giorgia. Io per me è tutto. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, siamo a disposizione. Ah, quello che posso aggiungere è, diciamo, ricordo sempre l'occasione per ribadire di avere sempre un senso critico davanti a qualsiasi cosa che si legga, si veda, qualsiasi messaggio dai social, perché non è la quantità di likes che fa, insomma, che dà il senso e la logica a certe scelte. Quindi cerchiamo di andare oltre le parole, capire cosa c'è dietro, informarsi e aiutare chi veramente ha bisogno. Sì. Questo. Ok, grazie mille. Allora, io ti ringrazio moltissimo e ti una, diciamo così, una tua collega Marina Grossi ti ha definito un patrimonio, e io sono molto d'accordo per questa definizione, quindi ti faccio tantissimi complimenti, perché veramente la semplicità e la passione che trasmetti nel raccontare quello che fai è incredibile, è veramente incredibile, quindi ti ringrazio moltissimo e sono molto felice di averti avuto qui a Pocrasi. Io ringrazio te, ringrazio tutti quelli che mi danno la possibilità di raccontare queste storie, perché secondo me le storie ti fanno capire tante cose, no? Al di là di tutte le astrazioni, al di là dei luoghi comuni, di quello che si dice, libertà sì, libertà no, definizioni varie, ecco, le storie vere, le cose che succedono, a volte hanno qualcosa di talmente magico e potente che veramente può andare oltre tutto, quindi sono contenta e ti ringrazio, come ringrazio Marina, mi dice sempre cose bellissime. Perché spero tanto che molte persone insieme a me, come me, insomma, vogliano muoversi in questo senso. Lo speriamo anche noi. Allora, è tutto. Io ti ringrazio, ti saluto e ci vediamo poi magari per altre chiacchierate. Grazie mille, Giorgia. Grazie di cuore, ciao. Bene amici, per questo episodio è tutto. Ringraziamo ancora Giorgia per il prezioso contributo. Personalmente spero di tornare in Sicilia molto presto e di poter incontrare lei e i suoi fantastici amici. Prima di lasciarvi, vi ricordo che Pocrasi fa parte di un progetto più ampio chiamato Runtime Radio, la Radio Geek. Se volete scoprire quello che facciamo, basta andare su www.runtimeradio.it o su spreaker.com/user/runtime. Se volete contribuire al grande sforzo produttivo e creativo del nostro network, basta andare su runtimeradio.it/anch'io. Per quanto riguarda questo programma, ci trovate su spreaker.com/show/pocrasy e su tutti gli aggregatori podcast principali, da iTunes a Spotify. Per ora, per contattarci, potete scriverci a pocrasypodcast@gmail.com. Da me, Michela De Paola, è tutto. Ciao, al prossimo episodio e che la rivoluzione abbia inizio!